Ma fò pien. A ma fò pien. Nakatori yo, asuma na bò. Nakatori, asuma na bò. Nakatori yo, asuma na bò. Nakatori, asuma na bò. Ibe kame nani anakinyene. Ibe kame nani anakinyene. Élection sera corruption yé. Élection sera corruption yé. Kucha yé. Nakatori asuma na bò. Nakatori o asuma na bò. Nakatori asuma na bò. Baba nata slay. Anaya karam vota. Voter. Règlement de compte. Anima voter.